Allora, siamo a un punto, un po' una cima del nostro lavoro, perché siamo arrivati la volta scorsa a vedere cosa dice il Concilio di Trento, e al termine di un lungo percorso nella tradizione, nella storia dell'interpretazione della scrittura e anche insomma della interpretazione della vita stessa della Chiesa, che era soprattutto la prassi del battesimo anche ai bambini che non avevano ancora peccati personali. Al termine di tutto questo abbiamo visto come il Concilio di Trento esprime la verità di fede sul peccato originale, sull'origine dell'uomo. Come tutte le espressioni dogmatiche, non dicono mai tutto, non rispondono mai a tutte le domande, sono sempre suscettibili di senz'altro di approfondimenti e anche di interpretazione, la stessa definizione dogmatica. Noi adesso allora faremo questo, adesso qualche minuto io vorrei giusto mettere in evidenza i punti salienti e anche i termini impiegati dal Concilio di Trento a proposito della dottrina sul peccato originale. Poi per un momento lasciamo qui la dottrina e adesso a questo punto sì che ripartiamo un po' dalla scrittura, mettere in luce anche alcune questioni che restano aperte un po' o comunque suscettibili di approfondimento del Concilio, della definizione dogmatica di Trento, e poi a questo punto, forti già di questa, anche della solidità della dottrina, andiamo a vedere oggi con l'aiuto di Don Marco Fabbri, delle sue lezioni sui primi capitoli della Genesi, come si può leggere la scrittura, come possiamo ritrovare nella scrittura la dottrina affermata a Trento, e anche potremmo avere qualche spunto per approfondire, per capire meglio. Poi nelle prossime lezioni vedremo che cosa la teologia dopo il Concilio di Trento ha sollevato come problematiche oppure ha apportato come migliore comprensione della dottrina sul peccato originale, e come poi il Magistero ha in parte risposto e in parte rafforzato e confermato determinate affermazioni del Concilio. Ecco, questa è un po' l'idea, cioè adesso partendo da quello che già siamo arrivati a vedere come affermazione dogmatica, di provare ad andare avanti, sia riprendendo la scrittura, sia vedendo la teologia che cosa ha aggiunto o che cosa ha anche a volte un po' preso di mira, con l'idea che forse bisogna capire meglio, e che cosa il Magistero ha detto, in modo che ci faremo un'idea anche più anche migliore di quella che possiamo avere fino a questo momento. Allora, punti salienti della dottrina di Trento. Intanto, sulla natura del peccato di Adamo non si dice molto, si dice che è una prevaricazione, una disobbedienza. Quindi si usa l'idea è quella di disobbedienza al precetto di Dio, e quindi è un'offesa a Dio. Questo lo dice il Concilio nel primo dei canoni riguardo al peccato originale. Poi, per quanto riguarda le conseguenze in Adamo, poi vedremo quelle in noi, in Adamo la conseguenza del peccato è vista come, innanzitutto, muove Dio all'ira e all'indignazione. Si usa molto il linguaggio biblico dell'ira di Dio. Dice, a causa di questa offesa, dell'offesa, della sua disobbedienza, è in corso l'uomo nell'ira, nell'indignazione di Dio. Quindi senz'altro si sottolinea l'idea di punizione, punizione del peccato originale, del peccato da parte di Dio. E che cosa provoca in Adamo? La morte, È piuttosto evidente che il concilio qui intende la morte nel senso abituale del termine. Lo dico perché una delle idee che anche nel dibattito odierno sono comunque appunto oggetto di dibattito è se la morte corporale, la morte nel senso abituale del termine, sia davvero una conseguenza del peccato originale o non sia piuttosto una condizione normale, naturale per l'uomo, che come tale non sarebbe una conseguenza del peccato originale. Il concilio, come hanno fatto del resto praticamente i padri, diciamo tutta la tradizione, afferma che la morte e la cattività sotto il potere di colui che della morte ha l'imperio, cioè del diavolo, è una conseguenza del peccato originale. Se ci ricordiamo, anche i pelagiani dicevano invece nel quarto quinto secolo che invece no, la situazione dell'uomo poteva essere, dei bambini che nascono adesso, poteva essere la stessa di Adamo prima del peccato originale, Adamo innocente, quindi come se la morte sarebbe condizione normale, naturale dell'uomo. Poi in seguito al dibattito arrivavano ad ammettere che magari no, quella poteva essere una conseguenza, però la loro idea originaria era che potesse essere la condizione normale. E già il concilio, adesso non ricordo più se quello di Cartagine o di Orange, comunque aveva detto che no, invece, che non era così. Quindi, diciamo, le affermazioni sulla morte come conseguenza del peccato originale sono piuttosto forti. Bisognerebbe capire, è possibile forse, se uno... Vabbè, questo lo vedremo più avanti. E comunque il concilio parla di morte intesa nel senso abituale, parla di soggezione a colui che ha il potere della morte, soggezione al demonio, e di deterioramento di tutto l'uomo, di tutto l'uomo, usando un'espressione già del concilio di Orange, corpo e anima, l'uomo corpo e anima in deterius commutatum est, qui usa il passato, quis. Tutto l'uomo è stato peggiorato, nel corpo e nell'anima. Poi la conseguenza invece è in noi, no? Nella discendenza di Abramo si dice che la prevaricazione di Adamo ha nuociuto, si dice, no? Ha nuociuto a tutti noi, e si dice che Adamo ha perso anche per noi la santità e la giustizia, etiam nobis, anche per noi ha perso la santità. E poi è stato trasmesso, si usa il termine trasmettere, anche a noi non solo la morte e le altre pene del corpo, quindi la debolezza eccetera, ma anche il peccato, che è morte dell'anima. Quindi c'è stata la trasmissione sia delle pene del corpo sia del peccato. E poi, ecco, per arrivare in seguito a, quindi queste le conseguenze sull'uomo, poi si parla del rimedio. Il rimedio, si usa questo termine al peccato di Adamo, e si dice che l'unico rimedio è il merito di Cristo. Merito di Cristo. E questo merito viene applicato, questo rimedio, scusate, viene applicato, si sottolinea bene, tanto agli adulti quanto ai bambini. Quindi anche i bambini hanno bisogno dell'applicazione del rimedio. Ultima cosa, il peccato di Adamo si dice che è origine unum. Cioè, è uno nella sua origine, quindi direi che questo significa che il peccato di Adamo, nella visione dei padri del concilio, è effettivamente stato un peccato personale di Adamo. Questo potrebbe opporsi a visioni anche più attuali che tendono a non vedere il peccato di Adamo e Adamo come una figura storica, come un fatto storico, ma più come una immagine di tutta l'umanità. In Adamo tutta l'umanità, e il peccato che è qualcosa che... Invece qui, ecco, questo origine unum, senz'altro, insieme un po' a tutta l'idea che c'è nel Concilio, mi indicano che Adamo è una persona e che il suo peccato è stato un fatto, è un fatto storico, non qualcosa, non solo simbolo del peccato dell'umanità. E origine unum, ma per propagazione, si dice, per propagazione è trasmesso a tutti ed è quindi proprio a ciascuno, unicuique proprium. Quindi è origine unum, è uno nella sua origine, ma per propagazione, non si dice generazione, anche se il termine generazione lo si usa in un altro punto, però diciamo il Concilio tende a usare propagazione, è trasmesso a tutti noi. Questo, allora, quali, giusto per anticipare, almeno avere un po' anche in mente, anche nelle lezioni che faremo adesso, alcuni punti che possono essere oggetto di, e che sono di fatto anche oggetto di, o di critica, o di dibattito, o di desiderio di approfondimento. Questa dottrina, ecco, in che punti viene, può essere, diciamo, attaccata? O... Ah, uno l'ho già detto, Adamo ed Eva erano personaggi storici, perché se uno sostiene questo, allora anche nel dibattito con la scienza bisognerebbe sperare che la scienza affermi come teoria di, sulle origini dell'umanità, il monogetismo, cioè che tutti gli esseri umani siano derivati da una coppia originaria. E questo è uno dei punti, effettivamente, che sono senz'altro oggetto di dibattito. Quindi Adamo ed Eva vanno visti come veramente personaggi storici. Poi l'universalità del peccato è esteso a tutta l'umanità, come insegna San Paolo. Tutta l'umanità è peccatrice ed è anche universale, diciamo, però la salvezza portata da Cristo. L'universalità della redenzione è vista come richiede una universalità della colpa, del peccato. Questa universalità, quindi, non si potrebbe spiegare anche in un modo diverso invece da quel meccanismo di propagazione per generazione, cioè che siccome tutti discendiamo da Adamo, tutti ereditiamo una natura vulnerata, colpita, corrotta. Non si potrebbe spiegare in un modo diverso questa universalità della colpa nell'uomo, senza dover ricorrere per forza a un capostipite unico. Questo è un altro punto collegato al primo, diciamo. Poi possiamo pensare davvero, alla luce anche delle conoscenze scientifiche attuali, uno stato originario in cui non esisteva la morte per l'uomo, in cui l'uomo non era soggetto alla sofferenza e alla morte? È pensabile, o fa a pugni con la visione del mondo che ci dà la scienza? Poi invece, ecco, queste forse sono più domande che derivano dal confronto con il mondo scientifico. Comunque, tenendo presente che questo confronto effettivamente negli ultimi decenni c'è stato, forse è uno dei principali punti diciamo, critici, proprio il confronto con il dibattito scientifico, con la visione scientifica. E poi però un altro punto può essere questo, che è più di tipo, diciamo, una domanda che ci si pone: in che senso ereditiamo una colpa? Il linguaggio del Concilio di Trento effettivamente è quello di una colpa che è in noi, e che noi abbiamo, ecco, in noi la morte e la debolezza del corpo è una pena, una pena per un peccato. Ah, ma perché io, che nasco oggi, eredito una colpa? se il peccato di Adamo era personale. Sappiamo le risposte che hanno dato Agostino, che ha dato Tommaso, però forse per la mentalità anche attuale è meno comprensibile di quanto forse lo era prima, dire, come dice Tommaso, che siccome il principio della nostra natura umana, cioè Adamo, ha peccato, è logico che noi, ricevendo la natura umana da lui, ne portiamo le conseguenze. Se in lui viene ferita, anche in noi, nel principio di questa natura. Ecco. Bene, questo è un altro punto un po' da tenere presente. Senz'altro, appunto, dicevo che anche le affermazioni di un concilio dogmatiche richiedono una certa interpretazione. Il concilio, oppure un'affermazione dogmatica, ha sempre in mente un obiettivo principale su cui vuole chiarire come stanno le cose, e poi però afferma varie cose. Ecco, non tutte le cose che vengono affermate hanno lo stesso peso, diciamo, lo stesso peso di autorità da parte del concilio, no, da parte del magistero. Ecco, teniamo sempre anche presente che le eventuali proposte teologiche che vengono formulate, che in parte poi vedremo nelle prossime lezioni, teniamo presente anche, oltre all'insegnamento del Concilio di Trento, quali sono i punti che la dottrina del peccato originale vuole difendere assolutamente. Che l'origine del male non è da Dio. Per cui idee del tipo, Teilhard de Chardin a un certo punto disse che il male in fondo va inteso come una specie di cosa necessaria nello sviluppo, nell'evoluzione che porta l'uomo e poi anche nella crescita dell'uomo. Beh, faceva tutto un discorso, una teoria, comunque diceva in fondo il male è qualcosa che necessariamente appare in questo processo. Attenzione, perché questo vorrebbe dire che in fondo il male deriva da Dio stesso, una visione del genere. Questo è inaccettabile, assolutamente. E, ecco, quindi poi l'altra cosa fondamentale è che, anche sempre stata sostenuta e difesa da tutti, che la visione del male invece sta nel cattivo uso della libertà dell'uomo, che l'uomo è autenticamente libero e che è a causa della sua libertà che è entrato il male nel mondo. Bene, detto questo, allora ci prendiamo i primi capitoli della Genesi, che sono quelli, diciamo, centrali per l'insegnamento sul peccato originale, e voi dovreste, io seguirò molto, praticamente quello che dirò lo prendo tutto dalle lezioni di Don Marco, e penso che si possa seguire abbastanza bene il discorso anche senza averle sotto mano. Comunque poi nel computer ve le ritrovate anche per vederle con calma. Una premessa, è interessante quello che dice Don Marco Fabri all'inizio di queste lezioni. Dice: cosa cerchiamo noi nella Bibbia? Scusate se sto seduto, non so se c'è qualcuno. No, ecco, così, perché così riesco a leggere. Che cosa cerchiamo nella Bibbia? Cosa dobbiamo cercare come insegnamento su Dio e sull'uomo? La Bibbia non ha come scopo dare una visione né filosofica né scientifica dell'uomo. E fa un esempio, Don Marco, quello che cerchiamo è qualcos'altro che vi dirò. In Genesi 1 l'uomo, nel primo racconto della Genesi, sapete che c'è il primo racconto, che è tutto il primo capitolo fino al quarto versetto del secondo capitolo, si chiama racconto sacerdotale perché viene dalla tradizione sacerdotale, anche detta P, da Priester Code. E in Genesi capitolo 1, se ci pensiamo, all'opera dei sei giorni, l'uomo appare dopo gli animali. Prima Dio crea le piante, poi gli animali, poi crea l'uomo, alla fine. Nel racconto, nel secondo racconto invece, in quello Yavista, che è quello poi che noi prenderemo in esame approfonditamente, perché è il racconto in cui c'è anche la caduta, che va dal versetto 2:4b in avanti, L'uomo è nominato invece prima degli animali. Prima Dio lo plasma, l'uomo, il maschio, e poi si descrive tutta l'ambientazione del giardino di Eden, poi si dice a un certo punto, il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo. In questo secondo racconto gli animali vengono creati dopo l'uomo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Bibbia non intende insegnarci se Dio ha creato prima l'uomo o prima gli animali. L'autore sacro, gli autori sacri, che possono essere più di uno, saranno alcuni per il primo racconto, altri per il secondo, poi ci sarà stato uno che ha messo insieme i due racconti, li ha giustapposti, prima uno poi dopo, ha inteso presentare due racconti diversi in alcuni particolari, lasciando poi a noi, a chi legge, il compito di estrarre da questi due racconti che cosa? Ciò che è utile a definire chi è l'uomo e chi è l'uomo in rapporto con Dio, fondamentalmente. Questo interessa la Bibbia. Dice Don Marco, l'autore sacro vuole dire qual è la posizione dell'uomo rispetto a Dio e il loro rapporto reciproco. E non ci vuole dare altri dettagli. Quindi se uno dicesse, no, ma allora noi teologi oggi dobbiamo prendere tutti gli elementi del racconto della Genesi e cercare di capire cosa significa ognuno, quindi le piante, gli animali, le cose, non potrei mangiarli questo, puoi mangiarli quest'altro, poi le vesti di pelli di animali, prima, le foglie di fico, un po' come facevano a volte nell'esegesi anche i padri, che va bene provare a dare un significato simbolico alle cose, ma non va bene pretendere che quello sia il significato che voleva esprimere l'autore sacro o che quello sia un significato che Dio intende insegnarci, veramente. E riguardo per esempio all'uomo prima o dopo gli animali, non importa, invece la cosa comune a tutti e due i racconti è mostrare la superiorità dell'uomo rispetto agli animali. Questo sì che c'è in tutti e due, questo è un dato concorde, un dato che emerge chiaramente, e questo sì che possiamo prenderlo come un insegnamento che la Bibbia ci vuole dare. Comunque questa è una premessa per dirci che dobbiamo leggere la scrittura senz'altro anche con cercando di riconoscere qual è l'immagine dell'uomo e di Dio e del loro rapporto che ci vuole dare, non pretendere che ogni dettaglio abbia un significato particolare. E allora, prendendo il racconto Iavista, che è quello che parte dalla seconda parte del versetto 2-4, che è più antico? Che è più antico, sì, è più antico, ottavo, nono secolo avanti Cristo più o meno, e invece quello sacerdotale è dell'epoca dell'esilio, probabilmente subito dopo l'esilio, e quindi sesto, quinto secolo. Allora comincia dicendo al verso 2-4, parte B: nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Dice Don Marco, è un inizio molto tradizionale questo, tipico anche dei racconti, e c'è una, prima si dipinge lo sfondo, l'ambientazione, e poi dopo questo al verso 2-7 si entra nella narrazione importante, perché dice allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Questo senz'altro è un versetto centrale per l'antropologia biblica, quindi la visione dell'uomo, e si possono mettere in evidenza alcune cose. Intanto il verbo usato è quello tipico dei vasai, il verbo usato per dire plasmare è l'azione del vasaio. E l'uomo è chiamato Adam, che è il termine ebraico che significa, che corrisponde a homo in latino, non necessariamente maschio, indica l'uomo, come quando noi diciamo l'uomo è andato sulla luna, l'uomo è una creatura razionale, cioè, e viene plasmato con polvere tratta dalla terra. Terra si dice Adama, quindi l'uomo è Adam e terra è Adama. C'è in questo versetto un evidente gioco di parole tra Adam e Adama, con il quale si presenta l'uomo che sorge dal suolo come il vaso dalle mani del vasaio. Però fino a questo momento ancora l'uomo è solo come un manufatto, ma privo di vita. Nel verso successivo, 2.8, anzi no, scusate, nella seconda parte del verso 2.7, si dice: soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. E alcuni racconti mitologici delle popolazioni babilonesi o dell'Oriente, diciamo anche intorno alla Palestina, dicevano che l'uomo era creato impastando la terra con il sangue di un dio minore ucciso da un altro dio superiore. Quindi nell'uomo c'era terra e sangue di una divinità. La Bibbia prende sì la terra, ma invece del sangue di una divinità è il soffio di Dio che dà vita all'uomo. In modo che si sottolinei da un lato che qualcosa di divino viene comunicato all'uomo, però si salva e si mette in luce la trascendenza di Dio. L'uomo non è impastato con il sangue di Dio, c'è il soffio di Dio, che esprime quindi vicinanza e però anche trascendenza, cosa che invece la visione babilonese non riusciva a esprimere bene. E d'altra parte però, vabbè, questo sarebbe, posso lo dire anche avanti. Così, una curiosità è che il termine per dire vivente è hai, e il verbo haya significa vivo, vivente. E quando si dirà il nome di Eva, in ebraico è come Havva, che però suonava, era come una traslitterazione di Haya, che vuol dire la vivente. Quindi in fondo noi in italiano non lo capiamo perché si chiama Eva. Genesi 3.20, vediamo se lo troviamo. Anzi no, Genesi 2.20, quindi c'è un errore direi. Sì. L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi, Genesi 3.20. Questo Eva in ebraico effettivamente significa la vivente, per cui è la madre dei viventi. Bene, questo è il verso 7. Poi di nuovo, dopo aver creato l'uomo, si descrive l'ambiente in cui l'uomo si trova. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ecco, io salto la spiegazione del giardino di Eden a oriente, anche se volete la trovate sulle dispense, su questa parte si fa riferimento, cioè è citato anche nel libro di Ezechiele due volte, una è riferimento al re di Tiro che viene punito da Dio e scacciato da questo, vabbè, in fondo vi sto spiegando la cosa lo stesso, da questo giardino, simbolicamente, perché si è creduto come Dio, ha creduto di essere al livello di Dio, e allora Dio gli dice: tu eri un modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in bellezza, in Eden, giardino di Dio, tu eri coperto da ogni pietra preziosa. Crescendo i tuoi commerci ti sei riempito di violenza e di peccati. Io ti ho scacciato dal monte di Dio e ti ho fatto perire. Questo dice Ezechiele 28, versetti 12-16. Quindi sicuramente Ezechiele conosce il tema del giardino di Eden, che era già stato scritto, appariva già in Genesi 2, quello che stiamo leggendo noi. Veniamo invece all'albero della vita. Quindi l'albero della vita era in mezzo al giardino. Non è una tematica quella dell'albero della vita originale della Sacra Scrittura, perché era presente anche in altre mitologie mesopotamiche. Per esempio nell'epopea di Gilgamesh, o come si dica, un eroe sumero, poi fatto proprio anche dai babilonesi, dagli assiri. Qui la storia dell'albero della vita, c'era un albero della vita che però andava conquistato, c'era la ricerca dell'albero della vita, che senza continuare a mangiarne dell'albero della vita si moriva, però c'era tutto il tema della ricerca. Invece la cosa originale della Bibbia è che l'albero della vita è messo a disposizione dell'uomo fin dall'inizio, non ha bisogno di cercarlo come doveva fare Gilgamesh. L'uomo ce l'ha lì a sua disposizione. E qual è il significato dell'albero della vita? Perché poi non l'ho trovato più, da parte che dice che c'è, non ho letto mai più niente. Certo, ma sicuramente questo è questo, insieme al fatto che Dio comanda di non mangiare l'albero della conoscenza del bene e del male, perché altrimenti morirete, e unito al fatto che poi l'uomo, una volta che mangia, viene scacciato dal giardino e si dice che non ha più accesso all'albero della vita, è il modo di dire dell'autore sacro che ci vuol dire che l'uomo aveva garantita una vita senza morte, se lo voleva, se fosse rimasto fedele, obbediente a Dio. Sull'albero della conoscenza del bene e del male torneremo dopo, e per ora non lo commentiamo. I versi successivi continuano a descrivere l'ambiente. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi si divideva, formava i famosi quattro fiumi, si descrivono i quattro fiumi. Poi al verso 15, che tanto ci piace, piaceva nostro padre, il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Su questo anche il commento di Marco è molto bello, fa capire che questi due verbi derivano, sono uno più di tipo sacerdotale, uno invece di un altro genere. Però non ci interessa da vicino adesso, vi rimando alla versione di questo file Antropologia Biblica completo, non ridotto. Nel ridotto non l'ho messo, in quello completo invece sì. Ecco, arriva perché lo coltivasse e lo custodisse. Verso 2:16. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. Ecco, vediamo innanzitutto come viene espresso il comando, non devi mangiare. Don Marco dice che c'erano nel Pentateuco, si trovano tre modi di dare i comandi. Un primo modo, che è espresso con l'imperfetto in seconda persona singolare, l'imperfetto ebraico, quindi comunque un esempio: non mangerai o non ucciderai, non desidererai la donna. Ok? Un secondo modo, che era invece di questo tipo: chi ferisce il padre o la madre morirà, espresso diciamo in modo impersonale, chi ferisce il padre o la madre. Poi una terza formulazione di tipo casistico: se allora, ok, con un costrutto del tipo se qualcuno fa questo allora succederà questo e quest'altro. Questa qui, questa terza, era la formulazione delle leggi più lunghe, prolisse, con molti casi particolari. Le leggi, per esempio, che regolavano la purezza legale, i rapporti familiari. Invece, la formulazione del primo tipo, quindi non mangerai, non ucciderai, non... che non è molto frequente, si trova nel Decalogo, e in pochi altri casi, tra cui questo, tra cui il nostro. È usata per le leggi più importanti, perché dà un'espressione sintetica che è molto chiara. Quindi è il comando usato per le leggi più importanti. Si tratta di materie in cui l'uomo facilmente riconosce nel proprio cuore la voce di Dio. Cioè una formulazione... che significa che si tratta di qualcosa che riguarda direttamente il rapporto dell'uomo con Dio, non una determinazione giuridica che aggiunge altri dettagli o dettagli secondari. Proprio è una cosa che riguarda il rapporto dell'uomo con Dio e che l'uomo stesso riconosce nel suo cuore con chiarezza diciamo che le cose sono così, secondo quel comando. In tutti i casi si tratta di precetti negativi, che sono quelli che si possono esprimere effettivamente in modo chiaro e succinto. Quindi, nel nostro versetto 2.17, questa è la formulazione: non mangerai. Poi la traduzione in italiano dice: ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare. Perché se ne mangerai, certamente morirai, dovrai morire. Anche qui sulla interpretazione, come già sull'albero della conoscenza del bene e del male, anche sull'interpretazione del dovrai morire, ci torneremo nel momento in cui nel dialogo tra Eva e il serpente, perché lì vedremo che tipo di interpretazione il serpente insinua nella mente di Eva. Adesso ci arriviamo a questo, diciamo, fino a qui Dio ha creato l'uomo, l'ha messo nel giardino e gli ha dato questo comando. A questo punto avviene la creazione della donna, su cui noi fondamentalmente soprassediamo. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. E allora Ador presenta gli animali ad Adamo, non trova nessun essere vivente che gli sia un aiuto per lui, simile. E allora Dio addormenta Adamo e poi con una costola forma la donna. Il sonno è un modo della scrittura di esprimere che Dio opera qualcosa di prodigioso e l'uomo fatica a rimanere vigile perché non si può vedere Dio. La coscienza umana non riesce a reggere la manifestazione di Dio. Allora, una cosa bella, comunque, anche se non ci soffermiamo tanto su questo, è che Adamo rimane favorevolmente colpito, no? Dice: questa volta sei carne della mia carne, osso delle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. E ecco, si dice poi nel versetto successivo 24: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due saranno un'unica carne. L'idea è che la donna, che è stata è parte della carne dell'uomo, è stata formata dall'uomo, tenderà, l'uomo e la donna, che sono in fondo in origine una sola carne, secondo la logica del racconto, sono portati a ridiventare, a unirsi, formando una sola carne. Il racconto, dice Don Marco, lascia intendere che l'uomo e la donna sono originariamente una sola carne che aspira a tornare insieme. Così si spiega che essi diventeranno una sola carne.